Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Nel tempo sin qui trascorso, Dorothy e i suoi compagni erano rimasti nel bosco fitto fitto. La strada era ancora lastricata di mattoni gialli, ma quasi completamente coperti da rami secchi e foglie morte cadute dagli alberi, e il cammino non era affatto agevole. C'erano pochi uccelli in quella parte della foresta, perché gli uccelli amano la campagna aperta, dove c'è molto sole. Ma ogni tanto si sentiva un grugnito provenire da qualche animale selvatico nascosto tra gli alberi. Il cuore della ragazzina batteva forte forte per quegli strani rumori di cui non conosceva l'origine. Toto, invece, pareva riconoscerli perché non vi rispondeva nemmeno abbaiando e camminava più vicino possibile a lei. «Quanto manca ancora?» domandò la ragazzina all'uomo di latta, «prima della fine della foresta». «Non ne ho idea», fu la risposta, «perché non sono mai stato nella città smeralda, ma mio padre c'è andato una volta, quando ero piccolo, e mi disse che era un viaggio lungo attraverso un paese pericoloso, anche se nei dintorni della città abitata da Oz la campagna è bellissima. Ma io non ho paura, finché ho la mia bottiglietta d'olio, e nulla può ferire lo spaventapasseri, mentre tu porti in fronte il segno del bacio della strega buona, e quello ti proteggerà». «Ma Toto?» disse la ragazzina, ansiosa. «Cosa proteggerà Toto?» «Lo proteggeremo noi, se sarà necessario», rispose l'uomo di latta. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Non appena ebbe finito di parlare, si sentì un ruggito terribile provenire dalla foresta e subito dopo balzò sulla strada un leone enorme. Con un colpo di zampa fece girare lo spaventapasseri su se stesso come una trottola e lo spedì sul ciglio della strada e poi tentò di affondare i suoi artigli nell'uomo di latta. Ma, sorpresa sorpresa, il leone non riuscì nemmeno a graffiare la latta, anche se l'uomo di latta fu sbattuto a terra nel bel mezzo della strada. Adesso che si era palesato un nemico da affrontare, il piccolo Toto corse abbaiando verso il leone, e il bestione aveva appena aperto la bocca per morderlo, quando Dorothy, temendo per la vita di Toto, ignorando il pericolo, si fece avanti e diede al leone uno schiaffo sul naso più forte possibile e gli gridò: «Non osare mordere Toto! Dovresti vergognarti, un bestione come te che morde un povero cagnolino!» «Non l'ho morso», disse il leone, strofinandosi con la zampa il naso là dove era stato colpito da Dorothy. «No, ma ci hai provato», ribatté lei. «Sei solo un gran vigliacco!» «Lo so», disse il leone, abbassando la testa per la vergogna. «L'ho sempre saputo, ma cosa ci posso fare?» «Non lo so, davvero. Pensare che hai colpito un uomo impagliato, quel povero spaventapasseri!» «È impagliato?» chiese il leone sorpreso, guardandola mentre lo tirava su e lo rimetteva in piedi, riaggiustandogli la paglia. «Certo che è impagliato!» disse Dorothy, ancora arrabbiata. «Per questo è stato così facile farlo cadere», disse il leone. «Mi sono meravigliato di vederlo girare in quel modo. Anche l'altro è impagliato?» «No», disse Dorothy. «È fatto di latta», e aiutò anche l'uomo di latta a rialzarsi. «Per questo mi ha quasi spuntato gli artigli», disse il leone. «Quando hanno colpito la latta ho sentito un brivido nella spina dorsale. E quell'animale a cui tieni tanto, cos'è? È il mio cane, Toto, rispose Dorothy. È di latta o è impagliato? Chiese il leone. Nessuno dei due. È un cane in carne e ossa, disse la ragazzina. Oh, è proprio un animale curioso, e adesso che mi ci fai pensare sembra incredibilmente piccolino. A nessuno verrebbe in mente di morderlo, tranne a un fifone come me, continuò a dire triste il leone. Perché sei fifone? Chiese Dorothy, guardando il bestione con aria perplessa, perché era grande quanto un puledro. È un mistero, rispose il leone. Immagino di essere nato così. Naturalmente tutti gli animali della foresta si aspettano che io sia coraggioso, in quanto il leone viene considerato dappertutto il re delle bestie. Ho imparato che se ruggivo molto forte, ogni essere vivente si spaventava e correva via. Tutte le volte che ho incontrato un uomo mi prendeva una paura immensa, ma bastava ruggire per farlo scappare via a gambe levate. Se gli elefanti e le tigri e gli orsi avessero mai tentato di assalirmi, io stesso sarei scappato a gambe levate. Sono un tale fifone. Ma basta che mi sentano ruggire e cercano tutti di allontanarsi. E naturalmente io li lascio andare. Ma tutto questo non è giusto. Il re delle bestie non dovrebbe essere un fifone, disse lo spaventapasseri. Lo so, replicò il leone, asciugandosi una lacrima con la punta della coda. Per me è un grande dispiacere e mi rende la vita molto infelice, ma nei momenti di pericolo il cuore inizia a battermi forte forte. Forse sei malato di cuore, disse l'uomo di latta. Potrebbe essere, disse il leone. Se lo sei, andò avanti a dire l'uomo di latta, dovresti esserne felice, perché dimostra che hai un cuore. Per quanto riguarda me, io non ho un cuore, quindi non si può ammalare. Forse, disse il leone, riflettendo, se non avessi un cuore non sarei così fifone. Hai un cervello? Chiese lo spaventapasseri. Immagino di sì, non ho mai controllato, rispose il leone. Io sto andando dal grande Oz per chiedergliene uno, lo informò lo spaventapasseri, perché ho la testa piena di paglia. E io sto andando a chiedergli di darmi un cuore, disse l'uomo di latta. E io sto andando a chiedergli di rimandare me e Toto in Kansas, aggiunse Dorothy. Secondo voi, Oz, potrebbe darmi del coraggio? Chiese il leone fifone. Con la stessa facilità con cui potrebbe darmi un cervello, disse lo spaventapasseri, o a me un cuore, disse l'uomo di latta, o rimandarmi in Kansas, disse Dorothy. Allora, se non vi dispiace, verrò con voi, disse il leone, perché non sopporto l'idea di vivere senza un briciolo di coraggio. Sei più che benvenuto, rispose Dorothy, perché aiuterai a tenere lontane le altre bestie selvagge. Mi sembra che debbano essere più fifoni di te se ti permettono di spaventarli così facilmente. In effetti lo sono, disse il leone, ma questo non mi rende più coraggioso. Finché saprò di essere un fifone, sarò infelice. E così, ancora una volta, la piccola compagnia si mise in viaggio, con il leone che camminava a passi fieri accanto a Dorothy. In un primo momento Toto non approvò la presenza di questo nuovo compagno, in quanto non riusciva a dimenticarsi di essere stato quasi stritolato nelle sue grosse fauci. Ma più passava il tempo, più si sentiva a suo agio, e Toto e il leone fifone divennero presto grandi amici. If I had some more time to spend, then I guess I'd be with you, my friend. If I needed someone, had you come some other day, then it might not have been like this. But you see now I'm too much in love. Call your number on my wall and maybe you will get a call from me. If I needed someone, quel giorno nulla interruppe più la tranquillità del loro viaggio. Una volta, però, l'uomo di latta calpestò un insetto che stava camminando sul ciglio della strada e uccise il povero animaletto. L'uomo di latta se ne rattristò molto perché stava sempre assai attento a non fare del male ad alcun essere vivente e, strada facendo, pianse per la pena e per il rimorso. Le lacrime gli scorrevano giù per le guance e sui cardini della bocca, e lì si arrugginirono. E così, quando Dorothy gli fece una domanda, l'uomo di latta non riuscì ad aprire bocca, perché la ruggine gliel'aveva sigillata. Perciò si spaventò moltissimo e gesticolò freneticamente per cercare di far capire a Dorothy che doveva aiutarlo, ma lei non capiva. Nemmeno il leone capiva cosa c'era che non andasse. Lo spaventapasseri, invece, prese la boccetta d'olio dal cestino di Dorothy e ne mise un po' sulla mandibola dell'uomo di latta. Così fu presto in grado di parlare bene come prima. «Questo mi servirà di lezione», disse. «D'ora in poi guarderò sempre dove metto i piedi, perché se dovessi uccidere un altro insetto, sicuramente piangerei di nuovo». E piangendo mi arrugginirei di nuovo la mandibola e non riuscirei a parlare. Da allora camminò con molta attenzione, fissando la strada, e, quando vedeva una formichina avanzare affaticata, la scavalcava per evitare di farle del male. L'uomo di latta sapeva benissimo di non avere un cuore e quindi stava molto attento a non essere mai crudele o villano. «Voi persone con un cuore», disse, «avete qualcosa che vi guida, ma io non ho cuore e quindi devo essere molto cauto. Ovviamente, quando Oz mi darà un cuore, non dovrò più stare così attento». I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La, da, da, da, da. Falling, yes, I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone, and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Mmm, na-da-da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, I'm falling, and she keeps calling me back again. Quella notte furono costretti a dormire all'aperto, sotto un grande albero, perché non c'erano case nei dintorni. L'albero li avrebbe riparati per bene dalla rugiada, e l'uomo di latta tagliò con l'ascia una pila di legno, e Dorothy accese un bel fuoco che la riscaldò e le fece compagnia. Lei e Toto finirono l'ultimo pezzo di pane, e adesso non sapeva cosa avrebbero mangiato a colazione. «Se vuoi», disse il leone, «andrò nella foresta e ucciderò un cervo per te. lo potrai arrostire sul fuoco, visto che i tuoi gusti sono talmente bizzarri che preferisci cuocerlo il cibo. Non farlo, per piacere, non farlo, supplicò l'uomo di latta. Piangerei sicuramente se uccidessi un povero cervo, e allora mi si arrugginirebbe ancora la mandibola. Ma il leone si addentrò nella foresta e si trovò la sua cena, e nessuno seppe mai cosa fosse, perché lui non lo rivelò. E lo spaventapasseri trovò un albero carico di noci e ne riempì il cestino di Dorothy in modo che ne avesse abbastanza per un bel po'. Lei pensò che lo spaventapasseri fosse molto gentile e premuroso, ma rise di gusto quando si accorse dell'impaccio con cui la povera creatura raccoglieva le noci. Le sue mani impagliate erano talmente goffe e le noci talmente piccole che ne lasciava cadere a terra quasi quante ne metteva nel cestino. Ma allo spaventapasseri non importava quanto ci metteva a riempire il cestino, perché gli premeva stare il più possibile lontano dal fuoco, avendo paura che una scintilla arrivasse fino alla sua paglia e lo bruciasse. Così si teneva fuori dalla portata della fiamma e vi si avvicinò soltanto per coprire Dorothy con delle foglie secche, quando si fu addormentata. Le foglie la tennero comoda e al calduccio, e dormì come un sasso fino al mattino. All'alba la ragazza si lavò la faccia in un ruscelletto che gorgheggiava lì vicino, e quindi tutti insieme ripresero il cammino verso la città smeralda. La giornata si annunciava piena di avventure. Dopo neanche un'ora di cammino videro dinanzi a loro un fossato enorme che tagliava in due la strada senza interruzione fino all'orizzonte. Era un fosso molto largo e avvicinandosi videro che era anche molto profondo e che sul fondo c'erano molti massi aguzzi. Le rive erano così scoscese che era impossibile scenderle. E per un momento sembrò che il loro viaggio fosse destinato a finire lì. «Cosa facciamo?» chiese Dorothy disperata. «Non ne ho la minima idea», disse l'uomo di latta, e il leone scosse la criniera arruffata e rimase in silenzio, pensieroso. Invece lo spaventapasseri disse: «Non possiamo certamente volare, né possiamo scendere nel fosso. Quindi, se non possiamo superare il fosso con un salto, dobbiamo fermarci qui. Penso che riuscirei a saltarlo», disse il leone fifone, dopo aver misurato bene la distanza mentalmente. «Allora siamo a posto», rispose lo spaventapasseri, «perché se ti montiamo sulla groppa, ci puoi portare di là uno per uno». «Beh, ci proverò», disse il leone. «Chi viene per primo?» «Io», dichiarò lo spaventapasseri, «perché nel caso in cui ti accorgessi di non riuscire ad attraversare il fosso, Dorothy verrebbe uccisa e l'uomo di latta si ammaccherebbe sulle rocce. Ma se sulla tua schiena ci sono io, non succederà nulla, perché io non mi farei male cadendo». «Ho una terribile paura di cadere, personalmente», disse il leone fifone, «ma immagino che non ci siano alternative. Quindi montami in groppa e faremo un tentativo». Lo spaventapasseri si sedette sulla schiena del leone e il bestione si accostò alla riva e si accucciò. «Non corri prima di saltare?» chiese lo spaventapasseri. «No, non è così che facciamo noi leoni», rispose. Poi, facendo un gran balzo, si slanciò in aria e atterrò sano e salvo sull'altra riva. Erano tutti contenti per la facilità con cui c'era riuscito, e sceso lo spaventapasseri, il leone attraversò di nuovo il fosso. Dorothy aveva deciso che adesso toccava a lei, quindi dopo aver preso in braccio Toto, montò in groppa al leone, aggrappandosi con la mano alla criniera. Pochi secondi dopo le sembrò quasi di volare, e poi, in un battibaleno, si ritrovò sana e salva dall'altra parte. Il leone tornò indietro per la terza volta per prendere l'uomo di latta, e poi si sedettero tutti quanti per un paio di minuti per dare alla bestia l'opportunità di riposarsi, perché fare tutti quei salti gli aveva fatto venire il fiatone, e ansimava come un cagnone dopo una lunga corsa. La foresta sembrava ancora più fitta da quella parte, ed era buia e triste. Una volta fatto riposare il leone, ritornarono sulla strada di mattoni gialli, domandandosi silenziosamente, ognuno per proprio conto, se sarebbero mai arrivati alla fine della foresta e se avrebbero mai rivisto la luce del sole. Per aumentare il loro sconforto, si sentivano rumori strani provenire dalla profondità della foresta, e il leone in un bisbiglio disse che proprio in questa parte del paese abitavano i Calì. «Chi sono i Calì?» chiese la ragazzina. «Esseri mostruosi con corpi come quelli di orsi e teste come quelli delle tigri», rispose il leone, «e con degli artigli così lunghi da farmi a pezzi facilmente, come io potrei fare con Toto. Ho tantissima paura dei Calì». «Non mi sorprende che tu li tema», rispose Dorothy. «Devono essere delle bestie orribili». Il leone stava per replicare, quando all'improvviso si trovarono davanti un altro fossato che tagliava in due la strada, così largo e profondo che il leone capì subito di non poterlo attraversare con un balzo. Quindi si sedettero per decidere cosa fare, e dopo averci pensato seriamente su, lo spaventapasseri disse: «Qui, vicino al fosso, c'è un grande albero. Se l'uomo di latta riuscisse ad abbatterlo in modo da farlo cadere dall'altra parte, potremmo servircene come ponte». «Che ideona!» disse il leone. «Mi viene il sospetto che tu abbia del cervello in testa invece che della paglia». L'uomo di latta si mise subito al lavoro, e la sua ascia era talmente affilata che non gli ci volle molto a finire. Quindi il leone, impegnando tutte le sue forze, si mise con le zampe a spingere l'albero, il quale prima si chinò lentamente e poi cadde, rumorosamente, con i rami più alti dall'altra parte del fosso. Avevano appena cominciato ad attraversare l'improvvisato ponticello, quando un forte ruggito li costrinse ad alzare gli occhi e, orrore, videro due bestioni con i corpi da orsi e teste da tigri che correvano verso di loro. «Quelli sono i Calì», disse il leone fifone, iniziando a tremare. «Attraversiamo!» urlò lo spaventapasseri. «Veloci!» Dorothy attraversò per prima, tenendo in braccio Toto. Seguì l'uomo di latta e poi lo spaventapasseri. Il leone, pur avendo paura, si girò per affrontare i Calì e ruggì così forte, ma così forte, che Dorothy urlò e lo spaventapasseri cadde all'indietro, e persino le bestie si fermarono e lo guardarono sorprese. Ma, essendo più grandi del leone e ricordandosi che lui era uno e loro in due, i Calì si avvicinarono ancora, e il leone, dopo aver attraversato il ponticello, si girò per vedere quale sarebbe stata la loro prossima mossa. Senza un minimo di esitazione, le bestie stavano per passare anch'esse sull'albero, e il leone disse a Dorothy: «Siamo perduti, perché ci faranno sicuramente a pezzi con i loro artigli affilati. Ma stai dietro di me, e io li combatterò finché avrò fiato in corpo». «Aspettate un attimo!» esclamò lo spaventapasseri. L'uomo di latta iniziò immediatamente a dare dei colpi d'ascia, e proprio mentre i due Calì stavano per raggiungerli, l'albero cadde fragorosamente nel fosso, trasportando con sé le brutte bestiacce ringhianti, che furono fatte tutte e due a pezzettini nell'impatto con le rocce appuntite sul fondo. «Beh», disse il leone fifone tirando un respiro di sollievo, «credo che vivremo un po' più a lungo, e me ne rallegro, perché deve essere molto brutto non essere vivi. Quelle creature mi hanno spaventato talmente tanto che ho il cuore che mi batte ancora forte forte». «Ah», disse rattristato l'uomo di latta, «vorrei tanto avere un cuore da far battere». I'm so tired. Dopo questa avventura, i viandanti non vedevano l'ora di uscire dalla foresta e presero a camminare così in fretta che Dorothy fu costretta dalla stanchezza a farsi portare in groppa dal leone. Avanzando, notarono con gran piacere che gli alberi diventavano più radi e nel pomeriggio giunsero a un grande fiume, il quale scorreva rapido davanti a loro. Oltre l'acqua si vedeva la strada di mattoni gialli attraversare un paesaggio bellissimo, pieno di prati verdi punteggiati da fiori di colori allegri e ai lati della strada degli alberi, carichi di frutti deliziosi. La vista di quell'incantevole paesaggio li riempì di gioia e di allegria. «Come facciamo ad attraversare il fiume?» chiese Dorothy. «Facile», rispose lo spaventapasseri. «L'uomo di latta deve costruirci una zattera per farci galleggiare fino all'altra riva». Così, mentre l'uomo di latta cominciava ad abbattere degli alberelli per costruire la zattera, lo spaventapasseri trovò sulla riva del fiume un albero carico di frutta. Dorothy ne fu entusiasta e se ne fece una bella scorpacciata, perché non aveva mangiato altro che noccioline per tutto il giorno. Ma ci vuole del tempo per fare una zattera, anche quando si è operosi e instancabili come l'uomo di latta. E così arrivò la notte, e il lavoro non era ancora ultimato. Si sistemarono dunque sotto gli alberi, al calduccio, e dormirono fino al mattino. Dorothy sognò la città smeralda e il buon mago di Oz, che l'avrebbe presto rimandata a casa. Alvar Horvacher ha letto Il mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.